la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mi alzo alla mattina con tutta la voglia di trionfare. Zompo la testa così pesante. Ieri sera abbiamo fatto una grande festa, ma da oggi in avanti diventerò una persona responsabile. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Poi mi incontrerò con il mio amico, quasi fratello, Alan. Finalmente andremo insieme in cerca di lavoro, ma prima faremo colazione per recuperare le forze, anche un po' di liquore per ottenere il giusto umore. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. sai che mi sento un po' strano. Sì, ti vedo strano, ma sei ubriaco, ma cosa hai fatto? Non lo so, ma forse era troppo fredda la birra. Madonna cane, ma sarà stata l'erba, buona però . Buona la erba, Dio cane. Ah, complimenti allo spaccino, eh. Andiamo. Andiamo avanti, vai, su. A cercare lavoro. Ma che lavoro è lavoro? Andiamo di festa, su, festa. Andiamo a bere qualcosa. Andiamo vai. Alla grande, cazzo. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Non si può fare niente, non si può fare niente.